con queste buone credenziali entriamo in questo discorso socio-antropologico. Ecco, io intanto mi scuso per lo schema il quale è stato fatto con una fretta eccessiva e quindi premetto che è misero. Ecco, io mi sento un po' spiazzato rispetto ai discorsi di pur estremo interesse fatti ieri e stamattina, e ne chiedo scusa se forse rompo un po' una logica di discorso che aveva una sua linea. Ecco, io cercherò così di accostare alcuni aspetti delle problematiche religiose viste dal punto di vista delle scienze umane, in modo particolare dell'antropologia e della sociologia. Quindi ritengo opportuno fare una premessa. Diciamo, la storia d'altra parte è nota. L'antropologia nasce come scienza nella seconda metà del secolo scorso, dopo un lungo periodo di incubazione che possiamo far coincidere con l'età delle scoperte geografiche. Basta confrontare l'illuminante pagine di Bartolomeo Las Casas sulla relatività del concetto di barbaro, a questo proposito. Prosegue con lo sviluppo del mito illuministico del buon selvaggio, che trova in Rousseau e Vico un referente filosofico di prima grandezza, e giunge a maturazione nell'età del colonialismo. Con la nascita dell'antropologia entra in crisi il concetto classico di cultura come paideia e ne matura un altro, di cui il precedente costituirà un sottinsieme, che troverà nella formulazione di Edward Taylor nel 1871 uno spettro di contenuti che rende tuttora valida in gran parte la definizione di cultura proposta dallo studioso inglese. La religione è spunta dall'illuminismo, dai livelli della ragione relegata nel territorio dell'impostura, viene recuperata, come noto, dalla cultura del romanticismo e nell'alveo della destra hegeliana, ma soprattutto entra nella cultura europea attraverso le recenti scoperte dei testi dell'induismo antico, la decifrazione di geroglifici da parte di Champollion, 1822, i resoconti dei missionari e dei funzionari di Colombo. La religione entra nella cultura tout court e Taylor ne prende atto, anche se con Taylor scattano meccanismi sulla cui contraddittorietà dirò poi, e si riguardano e la definizione della religione e la ricerca della prima religione in assoluto. La sociologia nasce come scienza più o meno nello stesso periodo, ma le sue origini, sia pure implicite, sono antiche. La riflessione sulla società, quantomeno come dover essere, risale alla Repubblica di Platone, e da allora sono pochi i pensatori che in maggiore o minor misura non abbiano riflettuto sulla società, o svelando i meccanismi interni del potere come Machiavelli, o progettandone una senza luogo come Tommaso Moro. La sociologia nasce come riflessione specifica sul sociale quando la seconda grande rivoluzione della storia, dopo quella neolitica, cioè la rivoluzione industriale, toglie alla società tradizionale il carattere di ovvietà che in qualche modo rivestiva per le grandi masse e comincia a sconvolgerla ad abimis fundamentis. Il passaggio dall'utopia alla scienza percorre il filone che va da Saint-Simon a Durkheim attraverso Marx e Weber. Gli orizzonti sono assai diversi, ma lo svolgimento in termini di acquisizione di uno statuto scientifico è progressivo. Nelle regole della méthode sociologique, Durkheim dichiara che i fatti sociali sono oggetti osservabili al pari di ogni altro oggetto di scienza e quindi analizzabili con gli strumenti che derivano dalla natura della sociologia stessa. Non v'è dubbio quindi che la sociologia, l'antropologia si configura come scienza della o delle culture, mentre la sociologia studia la società nei suoi mutamenti, nella sua stratificazione, eccetera. Esse non costituiscono per lo statuto epistemologico che le definisce i luoghi di definizione della religione o dei fatti religiosi. Lo genie del cristianesimo, del buddismo o delle religioni misteriche non è recuperabile entro categorie sociologiche, antropologiche o psicologiche. Il fatto religioso, qui sono d'accordo con Bien, che ha da essere colto essenzialmente iustra proprio principio, qui sono d'accordo appunto con Bianchi, con la scuola, con certe istanze della scuola fenomenologica, purché siano distese sul tapis roulant della storia, di una storia che, volta alla comparazione dei fatti e delle strutture religiose, è in grado di classificarli secondo il criterio, appunto, come si diceva, dell'analogia. Ora, il problema di una o più letture, ecco, direi che è più esatta, più che dimensione, diciamo, letture, socio-antropologiche della religione, nasce dal fatto che essa è parte integrante della cultura. Non solo, ma essa possiede caratteri istituzionali e professionali, nonché valenze d'ordine sociale più ampio, in grado di far comprendere in che misura e quali chance esso gioca nella globalità delle vicende storiche. Ciò significa che alla sociologia e all'antropologia non compete di definire lo statuto religioso o meno dei fatti storici, dei fatti religiosi. L'esperienza dimostra che i vari tentativi compiuti, se da una parte hanno spesso contribuito a gettar luce su aspetti oscuri o meno noti dell'esperienza religiosa, dall'altro difficilmente hanno resistito alla tentazione di estrapolare da una o più possibili definizioni, funzioni, alla definizione, con il classico passaggio totalizzante dalla parte al tutto, secondo criteri cui talora non erano estranee tendenze criptometafisiche, a versare o ad assorbire la complessità del fenomeno entro la camicia di nesso di una delle sue dimensioni. Però, ripetendo quanto dicevo stamattina, anche se è accaduto che le scuole antropologiche e sociologiche, nel loro sviluppo, nel loro occuparsi dei fenomeni religiosi, hanno tentato, hanno proposto o imposto definizioni della religione che oggi sono cadute o comunque appaiono fortemente riduttive, però è vero che la storia delle religioni è nata anche e in funzione di queste letture laterali, tangenziali, chiamiamolo, riduttive, incomplete o anche errate. Per altro verso, la sociologia e soprattutto l'antropologia spetta il merito di aver contribuito, e questa è una notazione di carattere generale, a spezzare le visioni eurocentriche, cristocentriche o marxocentriche della storia. Non perché debba essere abbandonata l'idea di Europa, di Cristo o Marx, quanto quella di centro. Scrive Jean Petitot, nel lemma centrato o accentrato dell'enciclopedia Einaudi, che la cultura dell'Occidente si porta dietro da secoli la tradizione dell'onnisciente, dell'identico, del proprio, dell'univoco, dello scopribile e dello scoperto, del classificabile e del classificato, dell'ordinabile e dell'ordinato, del gerarchico, del globale, del normato, in breve del centrato. Laddove nella strategia teorica odierna dovremmo provocare l'avvento del non onnisciente, dell'equivoco, del disseminato, del parziale, del locale, del marginale, del decentrato, dell'ex centrato, dell'accentrato. Ora, l'inaugurazione di un progetto del genere nell'ambito delle scienze religiose implica indubbiamente la crescita al loro interno di moduli interpretativi multipli, in modo che la religione, come il sapere tout court, venga colta come un reticolo di modelli, interagenti e non unificanti. Un esempio potrebbe essere l'analisi delle eresie medievali, che notoriamente sono state analizzate e da un punto di vista strettamente teologico o soltanto da un punto di vista strettamente storico, come sequenza di fatti, ma in realtà, a mio parere, le eresie medievali vengono completate, quantomeno nell'ambito di una loro spiegazione, se si coglie la natura di classe, la natura sociale, il tipo di personale che vi accedeva, la qualità dei problemi che influivano nell'elaborazione di universi religiosi che noi chiamiamo globalmente eresie medievali. Quindi alle scienze umane spetta il compito di analizzare quali ruoli e connessioni, di strappare gli eventi culturali dalla specificità dei loro universi semantici e comportamentali e di studiare il gioco globale in cui essi sono immersi. Ecco, per me il concetto di globalità è un concetto di fondo, è un concetto metodologico, è un problema che non verte soltanto la storiografia religiosa tout court, ma a mio parere verte e riguarda la storiografia di qualsiasi tipo, sia essa filosofica, letteraria o estetica o di qualsiasi genere. Cioè, a mio parere, ogni dato storico, ogni ricerca storica ha senso se un fenomeno colto una volta in termini metodologici e filologici nella sua specificità a un certo punto viene fatto giocare all'interno di un contesto globale. Allora esso assume significato, o quantomeno amplia i propri significati. Ecco, per questi motivi, proprio perché le scienze, alle scienze antropologiche e sociologiche non spetta la definizione dei fatti religiosi, ecco che allora il mio schema, direi più modestamente, non ha preteso di definire o di aggiungere definizioni a definizioni, ma si accontenta di dire alle scienze sociali spetta il compito di studiare il rapporto tra la religione e, quindi religione e ideologia, religione e società, religione e altri momenti della vita sociale. Ecco, io credo che sociologia e antropologia non possano e non debbano fare di più, che tanto più è utile e costruttivo il loro rapporto quanto maggiore e più preciso il senso dei loro limiti. Ecco, come esempi, ecco, proprio di carattere riduttivo, no? Tanto per è utile a un certo punto, potremmo così ricordare Durkheim, che è il punto di riferimento, di rifiuto, di accettazione, penso per esempio che il lemma religione enciclopedia Einaudi di Auger è parte proprio dalla decisione di Durkheim, anche se poi è molto ampliato su tutta una serie di dimensioni che non sto qui a dire. Durkheim dice che una religione è un sistema solidale di credenze e di pratiche relative a cose sacre, cioè separate e interdette, le quali uniscono in un'unica comunità morale, chiamata Chiesa, tutti quelli che vi aderiscono. Ecco, la definizione recupera ad esempio il concetto di ecclesia, che è specifico ad esempio della tradizione cristiana. Si conoscono parecchie religioni che non hanno chiesa. Quindi qui viene certamente operata una estrapolazione a realtà che non è possibile configurare come tale. Watch, sociologo di origine tedesca ma americano di formazione, la religione richiede per la sua identificazione quattro criteri formali. Primo, l'esperienza religiosa è una risposta a ciò che viene sperimentato come realtà ultima. E qui recupera Tillich, Watch, quando afferma che la presenza dell'esigenza escatologica nella struttura della nostra esistenza è la base dell'esperienza religiosa. Secondo, l'esperienza religiosa è una risposta totale dell'essere totale a ciò che viene appreso come realtà ultima. Terzo, l'esperienza religiosa è l'esperienza più intensa di cui sia capace l'uomo. Quarto, l'esperienza religiosa è concreta, vale a dire che comporta un imperativo, un impegno che spinge l'uomo ad agire. Ecco, secondo Watch, se manca, questa è una definizione a gambe di tavolo, se manca una definizione, uno degli aspetti, uno dei criteri, il tavolo non sta in piedi. D'altra parte, e qui occorre tenere presente, Watch ha il senso del limite, in un certo senso, della propria definizione. Non è un caso se si sente di recuperare all'interno di questi criteri la definizione di Tillich, indipendentemente dal giudizio che si possa dare alla posizione di Tillich. D'altra parte, occorre presente che non sempre, non necessariamente l'esperienza religiosa ha un carattere attivistico e quindi è possibile che nell'esperienza religiosa, ad esempio, il quarto criterio non sia necessariamente verificato. Quindi questi erano due esempi che ho voluto portare in mezzo ad altri per Per vedere come i sociologi si muovono in genere, ecco, l'esigenza sempre è di racchiudere, Ecco, vediamo ora alcune letture, alcune possibilità, alcuni possibili rapporti e collegamenti su cui, a mio parere, le scienze socio-antropologiche hanno probabilmente qualcosa da dire. Ad esempio, il rapporto fra religione e ideologia. È noto come una concezione dell'ideologia, una concezione tradizionale di derivazione marxista, in particolare ha tendenzialmente configurato l'ideologia in termini negativi, falsa coscienza, mascheramento dei reali rapporti di classe, addirittura per Engels la religione, anche la stessa protesta religiosa è un mascheramento di realtà altre. Giustificazione del dominio e manipolazione dei dominati, machiavellismo, eccetera. Ora, Althusser, filosofo marxista francese, poi eterodosso, ha ridimensionato la concezione di ideologia. In Pur Marx, egli definisce l'ideologia come un sistema di rappresentazioni che si distingue dalla scienza per il fatto che in essa la funzione pratico-sociale prevale sulla funzione teorica o di conoscenza. In questo senso, scaricata dell'intenzionalità strumentale che la contraddistinguerebbe in una società divisa in classi, quale la società capitalistica, l'ideologia assume il carattere di interpretazione globale della realtà e di atmosfera indispensabile alla respirazione culturale delle società umane. L'ideologia fa dunque organicamente parte, in quanto tale, secondo il pensiero del Althusser, di ogni totalità sociale. Sembrerebbe quasi che le società umane non potessero sussistere senza queste formazioni specifiche che sono le ideologie. Le società umane secernono l'ideologia e le vivono, non come una forma di coscienza, bensì come un oggetto del loro mondo interiorizzato al pari del linguaggio. L'ideologia indica un rapporto reale, un rapporto immaginario col mondo, i cui contenuti possono essere molteplici, contenuti conservatori, conformisti, riformisti, eccetera. Ora, nella quasi totalità delle società storiche, la religione ha costituito, a mio parere, l'ideologia, ovvero l'interpretazione coesiva del mondo, l'ombrello della cultura globale, quindi l'interpretazione che esso ha respirato e su cui si sono rette. Essa ha dettato le norme per agire nel mondo. Ricordo a questo proposito come l'opera di Troelsky, di Weber, su cui ritorneremo, siano proprio improntate al rapporto fra protestantesimo e azione nel mondo. Presso le società superiori, dove la stratificazione è più accentuata, la religione ha giocato il duplice ruolo di rappresentazione globale del mondo e giustificazione del dominio. In una situazione successiva, e per società superiori indico le società in cui è nata la città, in cui si verificano, si formano i primi nuclei urbani, in particolare nella società della Mezzaluna Fertile, e sono società che proprio in quanto si stabilisce una distinzione fra centro urbano e popolazione nel suo complesso, lì si istituisce una embrionale stratificazione sociale che certamente è scorretto indicare in termini di classe, ma che certamente una stratificazione c'è, perché come dice Sorokin non esiste una società piatta. In questo contesto la religione ha giocato il duplice ruolo di rappresentazione globale del mondo e di giustificazione del dominio, tanto più funzionante quanto più si trattava di una società integrata, nella quale generalmente i rapporti di dominio vengono legittimati dal sistema religioso vigente, al cui interno la dipendenza è riconosciuta e accettata, in quanto l'ideologia religiosa è condivisa da dominanti e da dominati. Ecco, la tesi di Godelier, antropologia e marxismo, circa la funzione ideologica della religione, si colloca tra l'interpretazione tradizionale dell'ideologia e quella di Althusser. Quindi un'interpretazione molto mediata, molto attenta. Althusser va alla ricerca diciamo, dei meccanismi di funzionamento delle società primitive e del significato che possono avere in quel contesto i rapporti di produzione. E lì opera effettivamente uno svuotamento del concetto marxiano, perché in quelle società egli coglie, sia attraverso le vistose eccetera, come i rapporti di produzione possono essere la parentela, le strutture della parentela o addirittura la religione stessa. Quindi non tanto i rapporti di produzione in termini di produzione di merci, ma altre modalità di connessione e di funzionamento della società. Quindi egli si guarda bene dal recuperare la tesi tardo-marxista del rispecchiamento. È nelle società più evolute che egli individua nella religione un fattore, sia pure in gran parte inconscio, di dominio. È il caso della società incaica, dove l'Inca, figlio del sole, più che rappresentare gli uomini presso gli dèi, dice Godelier, rappresenta gli dèi presso gli uomini. In tale situazione la religione diventa un fattore interno ai rapporti di produzione. La credenza nei poteri soprannaturali dell'Inca rende ogni individuo o gruppo della società debitore verso l'Inca. Da lui dipendono le condizioni di esistenza di ciascuno. Ciascuno deve quindi fornirgli lavoro e prodotti. Ciò che l'Inca, figlio del sole, compie in modo simbolico e immaginario, gli deve essere restituito con i frutti dell'attività lavorativa. In questo modo si stabilisce quello che i sociologhi chiamano uno scambio ineguale. Tra un complesso di prodotti simbolici espresso dall'insieme delle pratiche religiose coinvolgenti l'Inca, i morti, gli dèi, da una parte, e le risorse naturali e la forza lavoro della società dall'altra. A proposito dell'ideologia religiosa come fattore coesivo della società, Erich Wöbling ha definito queste società come cosmologiche, dove la vita sociale era direttamente connessa all'ordine del cosmo. In tale società le istituzioni sociali sono considerate come imitazioni o emanazioni della realtà divina. Le attività lavorative o i modelli del comportamento umano vengono riferiti ad esseri soprannaturali. Secondo Wöbling, il legame tra società e cosmo viene spezzato dalla religione ebraica e da quella greca, l'una affermando la rottura di livello fra il mondo e Dio, l'altra affermando un principio di individualità che spezza l'unità dell'uomo con gli dèi tramite la società. Ma anche dopo queste fratture continuò a sussistere un intimo rapporto fra istituzioni sociali e ordine dell'universo, nonché una gerarchia fissa dall'ordine inanimato delle cose sino a Dio. Ecco, sul tema dell'ideologia e religione si è particolarmente soffermato Pierre Bourdieu, sociologo francese, scritto un saggio, Genèse et structure du champ religieux, il quale ha introdotto il concetto di campo religioso come un insieme delle pratiche e delle credenze gestite dal gruppo di specialisti, il clero, che presiede alla produzione, alla distribuzione e al controllo della religione egemone. Egli sostiene che vi è uno stretto collegamento fra il potere reale e il potere simbolico in una determinata società e che la religione costituisce l'anello intermedio tra i due. Ciò non significa che la religione sia un semplice strumento, un regni per la loro dominante, per la classe dominante, dal momento che, come rileva Marc Auger, essa porta con sé tratti culturali anche delle classi subalterne e quindi con contenuti, come direbbe Gramsci, in contrapposizione per lo più meccanica, implicita, oggettiva con l'ideologia delle classi dominanti. Di qui, e questo è un oggetto di studio che io credo da approfondire ulteriormente, l'intima contraddizione ideologica interna di cui sono portatrici religioni come il cristianesimo. Il problema è di studiare perché ad un certo punto, questo non è vero che, perché ad un certo punto Lutero e Munzer si contrappongono frontalmente, Lutero attraverso i suoi famosi scritti contro le bande scellerate ladresche dei contadini, e Munzer, che era uno studioso della Bibbia, attraverso un'esegesi, che poi la fa anche Lutero, della lettera ai Romani. La lettera ai Romani diventa un momento, no, di separazione, di contraddizione, per cui troviamo su versanti opposti Lutero che già sta piegando verso l'establishment, il rapporto fra riforma ed establishment, che si consuma tra il 1522 e il 1525, e Munzer invece che attraverso un'esegesi di tipo diverso, ma quasi sugli stessi testi, riesce a dire cose che sono opposte, in un certo senso, o rivendicanti realtà e speranze che Lutero nega totalmente. Un ulteriore argomento è il rapporto religione e società. Tra religione e società esiste ovunque un reciproco condizionamento. Max Weber ha studiato l'etica economica delle religioni ponendo in rilievo, ad esempio, la reciprocità fra induismo e società di casta. Ad esempio, il concetto di karma insegna ad un indù che egli è nato in una particolare casta o sottocasta perché era destinato ad esserlo e dalla quale non ne può uscire. E ha sottolineato il ruolo giocato da tale reciprocità per la stabilità della società indiana. Anche la sua analisi del rapporto fra etica protestante e spirito del capitalismo ha posto in luce le affinità elettive esistenti tra alcuni filoni della riforma e l'evoluzione della borghesia capitalistica in talune zone del centro-nord d'Europa. Ecco, su questo vorrei sottolineare il fatto che molto spesso Max Weber è stato considerato come l'anti-Marx, no? Ma di un Marx di maniera, cioè, mentre Marx avrebbe sostenuto sempre, che non è affatto vero, che la religione, comunque le sovrastrutture, erano il riflesso della struttura, Weber avrebbe invertito questi rapporti, per cui avrebbe detto che il capitalismo addirittura sarebbe il prodotto del protestantesimo. Ora, nulla vi è di più falso, perché credo che Marx e Weber siano molto più vicini tra di loro proprio per l'estrema articolazione del loro discorso. Weber parla di affinità elettive, non parla di causalità storica. Weber non parla di protestantesimo nel suo complesso, parla di una particolare sezione del protestantesimo e all'interno di quella particolare sezione del calvinismo di una particolare sottinsieme che è l'etica puritana. Quindi è molto sottile nell'individuare le concezioni, i filoni che in un qualche modo possono essere inseriti in una logica che peraltro era già in atto, la logica della borghesia nascente che punta alla conquista del mercato e poi punterà al potere. Quindi Weber è molto più complesso di quanto non gli si attribuisca. Weber tiene come fattore fisso l'organizzazione economica e come variabile indipendente l'orientamento religioso. Per Weber l'unità dell'analisi sociologica è l'azione individuale rilevata nel significato che gli individui attribuiscono alla loro azione nella società. Per questo lo studio delle valutazioni che gli uomini, in quanto protagonisti, hanno del cosmo e della divinità, della religione e il riflesso che da tutto ciò si proietta nelle relazioni sociali e nel sistema economico diventa un punto centrale dell'analisi sociologica. Il problema del significato delle cose è strettamente legato anche a fatti quali la morte, la sofferenza, il male, che non trovano risposta di tipo scientifico, ma risalgono a ragioni che solitamente si scrivono in un quadro religioso e da questo quadro che giungono all'individuo alcune motivazioni influenti sulla sua azione sociale. Max Weber definisce l'azione religiosa come un'azione in rapporto ad entità soprannaturali. Le idee religiose sono le rappresentazioni che gli uomini si formano di tali identità e dei rapporti possibili con loro. La struttura del fenomeno religioso nasce dunque all'interno di un rapporto che è concretamente determinato dall'incontro del polo soggettivo con quello oggettuale, qualificato e vissuto come entità preternaturale. La dimensione ottimale del rapporto è contenuta, secondo Weber, nei termini pregnanti di salvezza. Ora, per Max Weber, questi atteggiamenti non sono riflessi, ma possiedono una loro autonomia. E gli giunge così a due conclusioni. Primo, esiste un rapporto significativo fra sistema di valori religiosi e sistema economico. Secondo, il sistema di valori religiosi non è una variabile dipendente dalle condizioni materiali. Il capitalismo nasce in Occidente perché? Quale apporto i sistemi religiosi occidentali hanno dato al processo capitalistico? Queste sono le domande che si pone Max Weber quando analizza il concetto di Beruf in Lutero e in Calvino e coglie anche le notevoli diversità fra questi due padri della riforma, quando analizza il concetto di ascesi intramondana, quando analizza i significati che i segni della salvezza hanno nell'operazione storica che il credente, il protestante, compie. Un altro studioso contemporaneo e amico di Weber, Ernst Troesk, pur pervenendo alla conclusione che la religione è un fenomeno dotato di una sua autonomia, su questo Troesk ha sempre insistito, non di meno afferma che nel nesso causale da un pensiero religioso, da cui il pensiero religioso riceve concretamente il polso, forma, movimento, scopo, operano sempre con maggiore o minor forza, in maniera immediata, forze sociali e per il tramite di questi, infine, anche forze economiche. I problemi che Troesk si pone sono due. Primo, se la fede religiosa e i movimenti religiosi sono un prodotto di fattori non religiosi o se sono irriducibili. Secondo, se e in che misura le dottrine e le istituzioni religiose influenzano gli altri elementi della cultura e della società. Troesk, attraverso l'analisi storica, perviene alla conclusione che la religione è un fenomeno reale e autonomo. La causalità della storia sociale è parziale, non totale. Egli elabora poi una tipologia storico-sociologica dei tipi principali di conformazione sociale autonoma dell'idea cristiana che identifica nella Chiesa la setta e il misticismo. Troesk afferma che i processi della vita religiosa vanno studiati in connessione con i processi globali della vita sociale e che i primi, pur nella loro autonomia strutturale, dipendono quanto ai contenuti delle rappresentazioni religiose dalle condizioni sociologiche globali della società, secondo moduli riferibili alla bipolarità adattamento-protesta, compromesso-rifiuto del compromesso, che si configurano nella formazione di chiesa, setta, misticismo individuale, osservati come centri dinamici di stimolo e risposta alle situazioni sociali. Per Troesk, dunque, esiste una pluralità di poli dinamici intorno a quello soggettivo in relazione con esso, la comunità religiosa, il gruppo sociale, il sistema economico. Anche i comportamenti religiosi cosiddetti popolari sono attualmente oggetto di ampia analisi. Già Gramsci aveva parlato di un cattolicesimo dei contadini diverso da quello dei ceti medi, di città, delle donne, degli intellettuali. E sulla scia di Gramsci, è noto, si sono sviluppati tutta una serie di studi e di ricerche che hanno avuto come centro in modo particolare le manifestazioni religiose popolari attuali, cioè quelle osservabili attraverso la ricerca sul campo. E Ernesto De Martino è uno dei pionieri di questo tipo di ricerca, pur ovviamente all'interno, e anche qui casca più all'interno di una concezione della religione che certamente è notevolmente riduttiva, ma che comunque, ecco, io vorrei salvare la fecondità, almeno nell'ambito delle sue ricerche, di un concetto del genere, la capacità di penetrazione che questo tipo di definizione incompleta e riduttiva ha pur tuttavia manifestato. Ecco, Lanternari ha richiamato gli studiosi in realtà di ampliare la nozione di religione popolare e ha ricordato come, prima ne avevo parlato, i movimenti popolari a matrice religiosa che si intensificano nel periodo fra 1000 e 1300 in Italia e nell'Europa centrale fra il XV e il XVI secolo, famosa la nota riforma popolare che precede e accompagna la riforma classica, ecco, devono essere anch'essi studiati secondo criteri che in un qualche modo implichino la presenza dell'analisi antropologica. Ecco, sovente la letteratura antropologica e sociologica tendono a definire la religione a partire dalle modalità del rapporto religione-società. Così secondo Leach, antropologico Raymond Leach, antropologico sociale inglese, le attività religiose sono semplici espressioni simboliche concernenti l'ordine sociale. Mentre per Milton Inger, sociologo di scuola funzionalista americano, la religione è il tentativo dell'uomo di relativizzare il negativo vissuto come uno schiacciante assoluto. Più corretto, a mio parere, è la posizione funzionalista, anche se inficiata da forti carenze d'ordine storico, per non dire da insensibilità storica, la quale sembra porre tra parentesi il problema della definizione della religione, o comunque per attirare l'attenzione sul contributo funzionale fornito dalla religione al sistema sociale. Però devo ricordare come tale corrente vede più l'aspetto di santificazione delle norme dell'ordine sociale presente nella religione che non i fattori di rottura da essi innescati. Ecco, la tesi di Radcliffe Brown è che per comprendere una religione bisogna studiarla in azione, scoprire i sentimenti che si sviluppano nell'individuo in conseguenza della partecipazione ad un determinato culto religioso, esaminare le azioni specificamente religiose, le cerimonie e i riti, analizzare i fattori sociali, quinto, analizzare come giochi il senso di dipendenza tipico della religione all'interno del sistema sociale. Secondo Radcliffe Brown, le religioni assolvono la loro funzione sociale proprio mantenendo costante questo senso di dipendenza che si riflette poi in un senso di dipendenza più globale per cui le religioni sarebbero fattori di conservazione. E qui l'analisi, a mio parere, è notevolmente riduttiva, anche sullo stesso piano in cui si pone la definizione stessa. Diversa la posizione di Milton Inger, di cui prima ho parlato, che nella sua Sociologia delle religioni ha sottolineato sia gli aspetti funzionali della religione, questo in linea con Malinowski, ma ha pure sottolineato le potenzialità conflittuali dell'esperienza religiosa. D'altra parte, un'esemplificazione di questa bipolarità dell'esperienza religiosa è stata colta dal Petazzoni stesso, quando al termine di un suo famoso saggio sui baccanali ha proposto di volgere l'attenzione sul conflitto fra religione dello Stato e religione dell'uomo, come luogo d'analisi storico-religiosa e, aggiungerei io, come possibile lettura, certo tutt'altro che esaustiva, anche dell'affermarsi del cristianesimo di fronte ai culti imperiali dell'URSS. Una lezione di metodo, sempre in questo ambito, viene dagli studi e ricerche di Jean Segui. Jean Segui, storico e sociologico del CNRS francese, studioso delle sette post-riforma, il quale ha colto ad esempio alle origini del pentecostalismo l'opposizione alla razionalizzazione crescente dei contenuti religiosi all'interno delle grandi chiese, nella misura in cui esse si acculturano sulla scorta dei valori della società post-rivoluzionaria e industriale. Egli si chiede se il pentecostalismo non esprima la protesta di individui culturalmente provati di fronte al cambiamento dei modelli culturali tradizionali. In ogni caso, il fenomeno settario viene colto, al di là del suo specifico teologico, come dato reattivo in termini religiosi di fronte ai mutamenti sociali non accolti o superati in termini di analisi storico-politica. Ecco, in Italia, sulla linea delle ricerche di Segui e di altri, si stanno conducendo analisi sulla formazione cosiddetta della nuova religiosità, la quale ha caratteristiche specifiche che, e questo è molto importante, non si inserisce in una tradizione specifica italiana. E mi riferisco a movimenti come i neocatecumenali, i carismatici, i testimoni di Geova che sono un gruppo a parte, i neopentecostali, i quali, guarda caso, mentre la religione tradizionale popolare di tipo meridionalistico è recuperabile soprattutto nella società contadina, come prodotto di una cultura rurale, questo tipo di formazione è un fenomeno di tipo essenzialmente urbano. Nel Veneto queste formazioni sono riscontrabili, ad esempio, nell'asse che va da Verona a Mestre, proprio nell'asse più industrializzato della regione, mentre a Roma sono state contate non meno di 15 comunità di carismatici. Qui va studiato non soltanto il tipo, ecco, il tipo di espressione religiosa, di rappresentazione, di ritualità, che raggiunge anche il livello dell'esaltazione collettiva, della glossolalia, per esempio, in certi casi. Qui va studiato anche il tipo di estrazione delle persone che accedono a questi gruppi. Io abito in un paese in cui sono arrivati i neocatecumenali e i testimoni di Geova già da tempo. E da un'analisi, io abito in una cittadina in cui c'è la Fiat e molte altre industrie, e un'analisi, seppure superficiale, di questa trentina di testimoni di Geova, indica che sono persone venute dall'esterno, che non hanno una radice generazionale nel contesto, e che quindi trovano in quel tipo di espressione religiosa una possibilità di autoriconoscimento. È un problema di ricerca di identità. Questo è un altro tema fondamentale, a mio parere, per studiare la cosiddetta nuova religiosità, su cui forse si è detto troppo, si è un po' anche gonfiata, ma che certamente rappresenta un rivolo presente in molte zone italiane, che ha, ripeto, caratteri diversi quanto alla natura, o quantomeno quanto alle origini, rispetto alla tradizionale religione popolare italiana che si svolge nelle campagne, nelle processioni, nei santuari. E vi dicendo, questi non conoscono né processioni, né santuari, né santi, né madonne. E questo è interessante perché non conoscono, non hanno nemmeno una fisiologia. Ecco. E questo è proprio estraneo alla tradizione italiana. Ecco, un discorso a parte meriterebbero gli studi sui messianismi e sui movimenti apocalittici. Già anche i testimoni di Geova sono e costituiscono un movimento apocalittico. Sono nati nella seconda metà dell'Ottocento e così, sulla base di una tesa di una fine del mondo continuamente spostata ogni qualvolta questo non si verificava. Ora siamo al 2000, ma si sa, il 2000 è un luogo d'apocalissi per molti motivi. Ora, i messianismi si sono sviluppati in modo particolare nelle società extraeuropee e gli studi compiuti su queste particolari formazioni dimostrano che la maggior parte di essi, sono il prodotto di un contatto tra religioni native e culture estranee, in modo particolare culture cristiane, giunte lì o attraverso l'attività missionaria o soprattutto attraverso una presenza coloniale. Quindi è giusto ed è importante lo studio dei messianismi come formazione tipica, particolare, per vedere gli aspetti tipologici che sono estremamente interessanti e vederne anche in termini comparati se e in qual misura si collegano con i messianismi classici. Ma è certo che la nascita proprio in punti del globo, toccati in un qualche modo dal rapporto, dall'impatto duro, spesso dallo scontro, fra cultura occidentale e culture etniche, dà un qualche segnale circa un'analisi del fenomeno messianico che non può essere ristretta nell'ambito di una pura tipologia storico-religiosa. Un ulteriore passaggio è espresso dal rapporto religione-cultura. Le ricerche sui rapporti tra religione e cultura si pongono a livelli diversi. L'attenzione all'universo simbolico della religione è uno dei temi che oggi più percorrono questo tipo di analisi, questo tipo di ricerca. Mi riferisco ad antropologi come Clifton Geertz, quali sono portati a configurare la religione essenzialmente come un sistema di simboli che costituiscono un nesso di fondamentale coerenza tra uno stile di vita particolare e una metafisica specifica, che sono in grado di sintonizzare l'azione umana su un dato ordine cosmico e di proiettare le concezioni dell'ordine cosmico sul piano dell'esperienza umana. Per Geertz, la religione è un sistema di simboli che agisce per instaurare atteggiamenti e motivazioni forti, onnipresenti, durevoli, mediante l'elaborazione di concetti relativi ad un ordine generale dell'esistenza e che investe tali oggetti di un senso di positività che fa apparire i suddetti atteggiamenti e le suddette motivazioni come gli unici reali. Ecco, secondo Geertz, l'essenza del pensiero umano consiste nella percezione del nesso strutturale fra un complesso di sviluppi, procedimenti, attività, relazioni, entità, eccetera, e un altro complesso per il quale il primo serve da programma, così che il programma può essere inteso come una rappresentazione o una concezione simbolo del programmato. Simbolo sacro quindi funziona a livello di sintesi dell'ethos di un popolo. Il tono, il carattere, la qualità della sua vita, lo stile e l'umore della sua morale e della sua estetica. Il simbolo sacro tonifica in un certo modo il comportamento globale, la cultura in senso antropologico di un popolo. Per Geertz il linguaggio simbolico assume e fa da tramite tra i problemi di significato posti dal caos, dal dolore, in una parola dal negativo, e l'insieme dei comportamenti, gesti, figure mitiche in cui si configura la religione. Essi attingono ad una realtà che va oltre il quotidiano ed è pure vissuta come intimamente presente e in grado di dare spiegazioni globali. Di qui la legittimità, secondo Geertz, di uno studio antropologico della religione che si articoli a due livelli: analisi dei significati incorporati nei simboli che costituiscono la religione, secondo collegamento di questi sistemi con la struttura sociale e con i processi psicologici. Il concetto di Geertz è molto complesso e ad un certo punto gli riesce addirittura a definire la religione senza alcuna, per esempio senza nessun riferimento a realtà metastoriche, ecco, semplicemente a problemi di significato generale o di elaborazione simbolico. E queste sono alcune delle estreme conseguenze a cui giunge l'antropologia, quasi volesse espungere l'oggetto dell'esperienza religiosa dalla propria definizione dei fatti. Ora, questi simboli, oltre ad essere specifici dell'esperienza religiosa, nelle sue diverse modalità mitico-rituali, possono pure entrare a far parte integrante della cultura dei gruppi oppressi. Qui mi riferisco a, per esempio, ai comportamenti religiosi delle minoranze negre in America, dove per esempio, secondo l'analisi di un antropologo Levin, in libertà come nella schiavitù, il diavolo fu spesso considerato dai neri americani come un sostituto dell'uomo bianco. Quindi la utilizzazione delle figure religiose proprio in funzione di una situazione di contrapposizione, no, e di opposizione nei confronti del dominio. Le culture subalterne, secondo le analisi di Lanternari, di Nola, De Martino e altri, conservano nell'esperienza quotidiana un più o meno ricco simbolismo religioso o di origine religiosa. Ecco, d'altra parte, qui mi riferisco ad un punto di riferimento che per me è estremamente importante. Il rapporto religione-cultura ha trovato ampia accoglienza presso la scuola francese delle Annali, scuola storica, soprattutto sul piano della metodologia, l'analisi dei meccanismi mentali entro l'universo religioso, compiuta da Dupron. Basti pensare al libro di Dupron sulle crociate e sugli immaginari collettivi che hanno giocato all'interno delle masse o dei gruppi che hanno partecipato alle crociate. Il problema degli immaginari collettivi analizzato da Bloch, e qui mi riferisco al suo studio sulle Rois Thaumaturges, quando egli con un'analisi molto fine riesce a far cogliere come l'ideologia del potere taumaturgico dei re inglesi e francesi di guarire col tocco delle mani le scrofole, un'ideologia diffusissima tra il IX secolo fino al 1003-1004, pare che lo stesso Luigi XIV avesse questa capacità guaritrice, gli fosse stata attribuita. In realtà questo fenomeno ha costituito una concezione di carattere generale di cui e la popolazione e il popolo ne ha partecipato, ma anche la stessa Chiesa, dal momento che queste capacità attribuite al re sono entrate all'interno delle preghiere, quindi all'interno del rituale cattolico. E anche l'attenzione posta ai processi di acculturazione religiosa, e qui faccio il nome di Bastide, grande antropologo francese, il quale si è occupato in modo particolare dei processi di acculturazione religiosa nei fenomeni di incontro culturale. In modo particolare mi riferisco ad un libro come Le religioni africane o Brasil, o altre ricerche fatte sempre in America Latina, le quali hanno aperto un campo fecondo di analisi pluridisciplinare nello studio delle civiltà. E qui mi riferisco, e direi che il termine pluridisciplinare probabilmente è più corretto del termine interdisciplinare, perché pluridisciplinarità in un certo senso mantiene l'autonomia dei singoli approcci e stabilisce un confronto di un fenomeno attraverso una visione a raggiera. Per cui, in questo modo, la religione entra fra le dimensioni della cultura globale. Secondo Luckmann, un sociologo antropologo tedesco, gli universi simbolici sono sistemi di significato oggettivati che collegano le esperienze della vita quotidiana ad una sfera di realtà trascendente. Ora, l'oggettivazione di un universo simbolico come sistema di significato presuppone che le esperienze soggettive che partecipano alla sua costruzione siano significanti. La significanza dell'esperienza soggettiva, secondo Luckmann, è tuttavia un prodotto di processi sociali. Quando un io, egli scrive, si impegna con altri nella costruzione di un universo di significato oggettivo e morale, l'organismo trascende la propria natura biologica. In questo trascendimento si configura l'esperienza religiosa. L'impressione mia è che Luckmann, per sfuggire al rischio di un riduzionismo sociologico, cada nella definizione implicita di una categoria esplicita dell'io con gli altri, per cui addirittura l'esperienza religiosa diventa una categoria dello spirito che si esplicita attraverso l'unione dell'io con gli altri. Quindi è un tentativo di salvare un po' capre e cavoli e di evitare di utilizzare da una parte la scuola o certi risultati della scuola fenomenologica e dall'altra tenendo d'occhio Durkheim. Più convincente è la tesi che, prescindendo da questioni relative alla genesi del fenomeno religioso, la coglie come meccanismo. E sarà un termine probabilmente, diciamo, rozzo, ma il problema, il concetto di religione come meccanismo a me personalmente sta bene, nell'ambito e nel contesto e nei limiti in cui essa opera come tale. Poiché l'ordine sociale viene ritenuto valido ed obbligatorio, prescindendo da persone, luoghi e situazioni, esso può venire inteso come una manifestazione di un ordine trascendente ed universale, come un cosmion che riflette un cosmo. E ciò si può aggiungere, cioè si può aggiungere che il procedimento mediante il quale viene attribuito lo status di universalità ad una concezione del mondo funge tipicamente come meccanismo di grande importanza nella legittimazione di un ordine sociale stabilito. Ecco, il motivo della religione come fattore di conservazione sociale qui ricompare ed è un leitmotiv, ad esempio, della scuola funzionalista. Senza concedere molto ad una visione più dialettica e articolata. Ecco, su questo tema specifico possiamo cogliere anche tesi opposte. A mio avviso, indice dell'interna e profonda ambiguità del dato religioso e particolarmente di quello cristiano, su cui probabilmente potremmo discutere dopo. E mi riferisco alle tesi di Rubem Alves, sociologo, teologo, credo peruviano, il quale coglie nella religione, nella presenza irrisolta della religione, una forma di protesta contro ciò che esiste di impersonale e oppressivo nel mondo. Dove è chiaro che, a mio parere, la tesi è una revisione dell'altra nota di Marx presente nella introduzione alla critica dell'economia politica, ma Rubem Alves procede dopo. Dice, all'interno della confessione cristiana egli coglie la seguente bipolarità. Il cattolico gli dice capisce il fatto, ma non lo accetta. I santi sono importanti per la spiritualità popolare, e le pratiche religiose cattoliche costituiscono un modo di aggirare, lui dice esattamente, più precisamente parla di ingannare, il Signore del destino, il quale deve restare fuori dalle frontiere dell'umano. Nel linguaggio dei protestanti, invece, il nome di Dio è centrale, la sua volontà è incontestabile. Non c'è modo di aggirarlo, il protestante deve conoscere le regole del gioco e giocare con estrema serietà sino alla fine. I protestanti accettano la repressione come legge normale della vita. La società protestante è una società razionale che esclude il raggiro, che crea una burocrazia funzionante. Nella società cattolica il credente non sempre sta al gioco, vedi la fenomenologia varia delle religioni popolari, lo sviluppo di ideologie religiose, la magia e lo spazio concesso alla magia. Non accetti il fatto, è potenzialmente portato al mutamento. Ovviamente questa è una contrapposizione probabilmente un po' schematica, ecco, e in un certo senso anche un po' apologetica, e sotto si coglie, però è confrontabile con alcuni dati, ad esempio col fatto che nella Germania nazista non si è sviluppata una resistenza e che la resistenza religiosa è stata estremamente ridotta. Ecco, Bonhoeffer è non il rappresentante di una consistente, a mio parere, resistenza al nazismo, ma di episodi pressoché individuali o riducibili a quel piccolo resto che era la Chiesa confessante. Religione e tempo. Il problema del tempo nelle religioni costituisce non soltanto una variabile del loro universo, ma esprime la modalità stessa dell'impatto della religione con la società. Durkheim, nelle forme elementari della vita religiosa, ha posto una netta distinzione fra tempo sacro e tempo profano, in contrapposizione reciproca, e con altri comportamenti che caratterizzano i due tempi. Così Marcel Granet, nella Pensée Chinoise, ha individuato nella Cina tradizionale l'alternativa fra il tempo dipendente dai ritmi coltivatori, il tempo della primavera, e il tempo della morte e del lutto, l'autunno. Secondo Van der Leuve, la festa è il tempus per eccellenza, il tempo distinto dalla durata in quanto particolarmente potente. Si tratta tuttavia di una festa collocata nel ciclo. Ecco, la distinzione posta dal teologo svizzero Oscar Kuhlmann, che a mio parere è di estrema importanza e anche fecondità nell'ambito delle ricerche storiche, storico-religiose, fra tempo ciclico e tempo lineare, che caratterizza il superamento delle religioni antiche da parte del mondo ebraico e cristiano, nonché la vasta, sicuramente staccando dal ritmo del campanile, cioè dal ritmo della festa, dal ritmo del giorno, dal ritmo dell'anno, e che quindi la borghesia abbia istituito una concezione del tempo diversa e propria, e che sfocerà addirittura nella esplicitazione che fa Beniamino Franklin quando sosterrà una tesi che poi è diventata un proverbio, cioè il tempo è denaro, cioè la convertibilità fra il tempo e il mercato e la logica del mercato. Ecco, io mi scuso se mi ci ho rilevato come il vissuto religioso, in un saggio che uscirà nell'anno a Revio, il vissuto religioso all'interno del cattolicesimo abbia in parte la struttura del ciclo, cioè è vero, il discorso di Kuhlmann è un discorso che in termini di principio, in termini ideologici, in termini teologici è perfetto ed estremamente importante. E direi che è estremamente più avanzato per certi aspetti e per la libertà che offre ai credenti più di quanto non abbiano fatto le varie teologie della liberazione e della rivoluzione della speranza e via dicendo, anche se di Kuhlmann se ne parla poco. A mio parere la lettura di Cristo e il tempo è una lettura straordinaria e importantissima. Però è vero che nella prassi dell'esperienza religiosa storica cristiana il ciclo non è stato completamente superato e che gran parte della religiosità popolare è vissuta ancora in termini di ciclo. Per cui se vogliamo fare una distinzione tra religiosità popolare di accettazione della realtà e una religiosità popolare che spezza e che vuole spezzare i limiti della realtà, mi riferisco alle eresie, ai grandi movimenti popolari a matrice religiosa, è la concezione del tempo in un qualche modo che discrimina questi due momenti, tra una concezione che rimane ciclica e quindi non può mutare il mondo, e una concezione che spacca il ciclo e quindi, imponendosi su una linea retta, tenta in un qualche modo di mutare il mondo e la realtà. L'antropologo inglese Leach si è occupato della rappresentazione simbolica del tempo presso alcune religioni e gli ha rilevato la coesistenza delle nozioni di ripetizione e di non ripetizione, la seconda collegata all'esperienza di nascita, vita e morte, e gli rileva le variazioni delle religioni anche in rapporto al modo di affrontare o di ripudiare la morte. Uno dei metodi più comuni è gli rileva di asserire semplicemente che la morte e la nascita sono la stessa cosa. Presso alcune società primitive il tempo viene sperimentato come qualcosa di discontinuo, ripetizione di inversioni, sequenza di oscillazioni, fra polarità opposte, notte e giorno, inverno e estate, siccità, alluvioni, vita e morte. La religione permette all'uomo di racchiudere tali opposizioni nell'unica categoria del tempo. I greci concepivano le oscillazioni del tempo in analogia con quelle dell'anima e ricorrevano alla metafora dell'atto sessuale che procura l'immagine primaria del tempo. Leach si sofferma inoltre sul tempo della festa come inizio e fine di uno stesso periodo. Le feste ordinano il tempo e staccano il periodo. Quindi il tempo viene creato attraverso le feste o i riti di passaggio, su cui si è soffermato lungo anche Van Gennep. Qui avevo un foglio in cui volevo far vedere lo schema di Leach, ma ecco questo, in cui gli far vedere come in sostanza la festa rappresenti un'interruzione, un'interruzione del tempo, della durata. La festa rappresenta un momento di interruzione, questo è il tempo della sua normalità, visto come intervallo fra due feste successive, il caso D, mentre la situazione B e le situazioni B sono situazioni marginali e le situazioni A e C sono situazioni di stacco tra il tempo normale e il tempo della festa. In realtà il tempo, se noi lo vediamo anche come viene vissuto, per esempio all'interno del carnevale o in altre feste, assume valenze completamente diverse. Quindi tra le funzioni delle feste è quella di ordinare il tempo. Tra due feste c'è il periodo, la fase bassa di cui parlavo. La festa invece rappresenta i picchi entro i quali il tempo ha logiche e tempi e ritmi diversi. Quindi è la società in questo senso che crea il tempo. I tempi profani sono originati e chiusi dalle feste. Durante la festa, come il carnevale, si assiste all'inversione dei ruoli. È il motivo classico e antico della sospensione del tempo, che è uno dei tempi, che è uno dei contenuti più importanti della ricerca storico-religiosa. Ecco, il problema è quello di vedere che senso ha, quale significato, in termini di esperienza storica, che ad un certo punto il tempo venga spezzato nella società e subisca delle sospensioni, o addirittura delle inversioni, dei momenti in cui i ruoli vengono vissuti secondo la logica del tempo del mondo alla rovescia. Come conclusione, credo che sia ora, religione e storia globale. Il problema delle scienze religiose consiste nello stabilire un rapporto fecondo con la storia delle religioni e con la storia tout court. Il problema è che la sfera di Bianchi ad un certo punto deve essere spezzata. Non per spezzarne la logica, cioè, e qui voglio spiegarmi, il problema è l'immagine della sfera è veramente perfetta, in termini statici diciamo che la sfera sta in equilibrio su questo piano orizzontale perché il suo baricentro e il punto d'appoggio stanno sulla stessa retta verticale. Ecco, il problema è che non sempre il piano d'appoggio è orizzontale ma che ha delle inclinazioni e quindi la sfera si muove secondo l'inclinazione del piano d'appoggio. Ecco, il problema è quello di studiare non tanto la sfera, ma il piano. In piano in rapporto alla sfera, la sfera in rapporto al piano. Ecco, quindi il concetto di una storia della religione del tutto autonoma e separata, a mio parere, va completato, va ampliato. L'autonomia della storia della religione è una condizione necessaria ma non sufficiente per una valutazione globale del rapporto dialettico religione-società. Oggi il problema consiste non tanto nello studio e non solo nello studio della storia religiosa della civiltà, quanto nello studio delle civiltà religiose, in cui il sacro e il profano si richiamano reciprocamente. Si pensi alle vicende politico-religiose che contrassegnano contesti così diversi come la Polonia o l'Iran. Voglio dire che se oggi vogliamo studiare il cattolicesimo polacco, lo possiamo studiare nei termini tipici della storia della religione, perché io ritengo che il cristianesimo rientrano tutte ovviamente nell'ambito della storia delle religioni senza differenze in termini metodologici. Ma è chiaro che oggi se si studia il cattolicesimo polacco lo si studia con altre valenze, di una società che sta mutando, che sta spezzando certe logiche repressive, che cerca e che punta verso realtà nuove di trasformazione della società stessa, del socialismo reale, in cui il cattolicesimo svolge una funzione dirompente, veramente collegata a tradizioni che oggi richiamano e reclamano la loro presenza e la loro funzione. In questo senso, e questo non elimina, non toglie l'esame specifico dell'esperienza religiosa in Polonia studiata attraverso gli strumenti che le sono propri, ma è certo che il complesso oggi della realtà polacca è talmente ampio che esso va visto e studiato nella sua globalità. È lo stesso l'Iran, dico, si può studiare l'islamismo, la teologia dell'islamismo, ma oggi il problema dell'Islam è il problema di una religione che vive la propria tradizione in rapporto all'impatto con una civiltà industriale che preme e che tende a spezzare la tradizione. E il problema, a mio parere, di Khomeini stesso è di vedere in che modo è possibile comporre questi due momenti che sembrano antitetici. Il mantenimento di una tradizione così rigida, così intransigente e spesso così intollerante come quella dell'Islam con la rivoluzione industriale che preme alle porte, prima ancora che con l'impatto con i sistemi capitalistici, con la natura stessa della rivoluzione industriale. Si tratta di ricorrere ad una metodologia sempre più pertinente, in grado di istituire vettori a doppio verso tra religione e tutte le dimensioni e manifestazioni dell'esperienza storico globale. Temi come religione ed economia, religione e lotta di classe, religione e neocolonialismo, religione e razzismo, religione e militarismo, religione e nazionalismo, religione e diritti umani e dell'emarginazione, religione e secolarizzazione, liberazione umana, non costituiscono solo oggetti di politica militante, ma prospettive di analisi in direzione della situazione presente, in direzione del passato prossimo e remoto. E si vanno oltre l'impegno dei credenti, ma tendono a spaccare lo specifico storico religioso e a toglierlo dall'isolamento e a inserirlo al pari delle componenti politiche, economiche, letterarie, figurative, tecniche, scientifiche nel contesto e nella globalità della vita storica. In questo senso e con questi fini, le scienze umane, senza aspirare a imperialismi privi di senso, giocano nei loro limiti un compito essenziale e costruttivo per una conoscenza la più ampia e completa possibile della dimensione religiosa e del suo ruolo nella società. Ringrazio profondamente di questa lettura che ha scosso. Prima ci ha pensato il pranzo e qualche sfera, ho visto qualche sfera, si muoveva. Adesso ha pensato, ci sono soprani, a mettere un po' in movimento il sottofondo delle altre sfere. Io faccio una proposta che abbiamo già realizzato gli altri anni. Invece di fare due dibattiti, io direi di dare un 10 minuti adesso di spazio per recuperare un po' la forza e la vivacità. E poi facciamo un lungo dibattito unico, nel quale nella prima parte i correlatori saranno tra di loro, direi, messi in questione. E naturalmente allora tutte le obiezioni, difficoltà e le messe in crisi della proposta anche del professor Prandi saranno bene accolte. E poi nella prima metà il dibattito avrà questo senso. Nella seconda saremo provocati noi teologi, o meglio provocheremo i nostri amici a dirci come pensiamo debba comportarsi la teologia di fronte a questi orizzonti aperti da queste varie scienze umane.